Ad alta voce, Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Capitolo primo. Sandokan e Yanez. La notte del 20 dicembre 1849, un uragano violentissimo imperversava sopra Mompracem, isola selvaggia di fama sinistra, covo di formidabili pirati situata nel mare della Malesia a poche centinaia di miglia dalle coste occidentali del Borneo. Il cielo, spinte da un vento irresistibile, correvano come cavalli sgrigliati e mescolandosi confusamente nere masse di vapori, le quali di quando in quando lasciavano cadere sulle cupe foreste dell'isola furiosi acquazzoni. Sul mare, pure sollevato dal vento, surtavano disordinatamente e si infrangevano furiosamente enormi ondate, confondendo i loro muggiti con gli scoppi ora brevi, ora secchi ed ora interminabili delle folgori. Né dalle capanne allineate in fondo alla baia dell'isola, né sulle fortificazioni che le difendevano, né sui numerosi navigli ancorati al di là delle scogliere, né sotto i boschi, né sulla tumultuosa superficie del mare si scorgeva alcun lume. Chi però venendo da Oriente avesse guardato in alto, avrebbe scorto sulla cima di un'altissima rupe tagliata a picco sul mare brillare due punti luminosi, due finestre vivamente illuminate. Chi mai vegliava in quell'ora con simile bufera nell'isola dei sanguinari pirati? Un labirinto di trincee sfondate, di terrapieni cadenti, di stecconati divelti, di gabbioni sventrati, presso i quali scorgevansi ancora armi infrante e ossa umane, una vasta e solida capanna si innalzava, adorna sulla cima di una grande bandiera rossa, con nel mezzo una testa di tigre. Una stanza di quell'abitazione è illuminata. Le pareti sono coperte di pesanti tessuti rossi, di velluti e di broccati di gran pregio, ma qua e là sgualciti, strappati e macchiati. E il pavimento scompare sotto un alto strato di tappeti di Persia, sfolgoranti d'oro, ma anche questi lacerati e imbrattati. Nel mezzo sta un tavolo d'ebano, intarsiato di madreperla e adorno di fregi d'argento, carico di bottiglie e di bicchieri del più puro cristallo. Negli angoli si rizzano grandi scaffali, in parte rovinati, zeppi di vasi, riboccanti di braccialetti d'oro, di orecchini, di anelli, di medaglioni, di preziosi arredi sacri, contorti e schiacciati, di perle provenienti senza dubbio dalle famose peschiere di Ceylan, di smeraldi, di rubini e di diamanti che scintillano come tanti soli sotto i riflessi di una lavandata soffitto. In un canto sta un divano turco, con le frange qua e là strappate, in un altro un armonium di ebano con la tastiera sfregiata e all'ingiro, in una confusione indescrivibile, stanno sparsi tappeti arrotolati, splendide vesti, quadri dovuti forse a celebri pennelli, lampade rovesciate, bottiglie ritte o capovolte, bicchieri interi e o infranti e poi carabine indiane, rabescate, tromboni di Spagna, sciabole, scimitarre, accette, pugnali, pistole. In quella stanza, così stranamente arredata, un uomo sta seduto su una poltrona zoppicante. È di statura alta, slanciata, dalla muscolatura potente, dai lineamenti energici, maschi, fieri, ed una bellezza strana. Lunghi capelli gli cadono sugli omeri, Una barba nerissima gli incornicia il volto leggermente abbronzato. Ha la fronte ampia, ombreggiata da due stupende sopracciglia gallardita arcata. Una bocca piccola che mostra dei denti acuminati come quelli delle fiere e scintillanti come perle. Due occhi nerissimi d'un fulgore che affascina, che brucia, che fa chinare qualsiasi altro sguardo. Era seduto da alcuni minuti con lo sguardo fisso sulla lampada, con le mani chiuse nervosamente attorno alla larga scimitarra che gli pendeva da una larga fascia di seta rossa stretta attorno a una casacca di velluto azzurro a fregi d'oro. Uno scroscio formidabile che scosse la gran capanna fino alle fondamenta, lo strappò bruscamente da quella immobilità. Si gettò indietro i lunghi inanellati capelli. Si assicurò sul capo il turbante adorno di uno splendido diamante, grosso quanto una noce, e si alzò di scatto gettando all'intorno uno sguardo nel quale leggevasi un non so che di tetro e di minaccioso. «È mezzanotte», mormorò egli. «Mezzanotte e non è ancora tornato». Vuotò lentamente un bicchiere pieno di un liquido color dell'ambra. Poi aprì la porta, si inoltrò con passo fermo tra le trincee che difendevano la capanna e si fermò sull'orlo della gran rupe, alla cui base ruggiva furiosamente il mare. Stette là alcuni minuti con le braccia incrociate, fermo, come la rupe che lo reggeva, aspirando sullo sconvolto mare. Poi si ritirò lentamente, rientrò nella capanna e si arrestò dinanzi all'armonium. «Quale contrasto!» esclamò. «Al di fuori l'uragano e qua io. Quale il più tremendo?» Fece scorrere le dita sulla tastiera, traendo dei suoni rapidissimi e che avevano qualche cosa di strano, di selvaggio, e poi si rallentò, finché si spensero tra gli scrosci delle folgori e i fischi del vento. Ad un tratto volse visivamente il capo verso la porta lasciata semiaperta. Stette un momento in ascolto, curvo innanzi, con gli orecchi tesi, poi uscì rapidamente, spingendosi fino all'orlo della rupe. Al rapido chiarore di un lampo vide un piccolo legno con le vele quasi ammainate entrare nella baia e confondersi in mezzo ai navigli ancorati. Il nostro uomo accostò alle labbra un fischietto d'oro e mandò tre note stridenti. Un fischio acuto vi rispose un momento dopo. «È lui», mormorò con viva emozione, «era tempo». 5 minuti dopo, un essere umano avvolto in un ampio mantello grondante d'acqua si presentava dinanzi alla capanna. «Yanez!» esclamò l'uomo dal turbante, gettandogli le braccia al collo. «Sassanakan!» rispose il nuovo venuto con un accento straniero marcatissimo. «Brr, che notte di inferno, fratellino mio! Vieni!» Attraversarono rapidamente le trincee ed entrarono nella stanza illuminata, chiudendo la porta. Sandokan riempì 2 bicchieri e porgendone uno allo straniero che si era sbarazzato del mantello e della carabina che portava ad armacollo, gli disse con accento quasi affettuoso: «Bevi! Mio buon Yanez, alla tua salute, Sandokan, alla tua». Vuotarono i bicchieri e si assisero dinanzi al tavolo. Sen sananana san sananana cha chari chari chari chari pavan. Il nuovo arrivato era un uomo sui 33 o 34 anni, cioè un po' più anziano del compagno. Era di media statura, robustissimo, dalla pelle bianchissima, i lineamenti irregolari, gli occhi grigi astuti, le labbra beffarde e sottili, indizio di una ferrea volontà. A prima vista si capiva che era un europeo, non solo, ma che doveva appartenere a qualche razza meridionale. «Ebbene, Yanez», disse Sandokan con una certa emozione, «hai veduta la fanciulla dai capelli d'oro?» «No, ma so quanto volevi sapere. Non sei andato alla Buan?» «Sì, ma capirai che su quelle coste, guardate dagli incrociatori inglesi, riesce difficile lo sbarco a gente della nostra specie. parlami di questa fanciulla, chi è? Ti dirò che è una creatura meravigliosamente bella, tanto bella da essere capace di stregare il più formidabile pirata. Ah, esclamò Sandokan. Mi dissero che ha i capelli biondi come l'oro, gli occhi più azzurri del mare, le carni bianche come l'alabastro. So che Alamba, uno dei nostri più feroci pirati, la vide una sera passeggiare sotto i boschi dell'isola e che fu tanto colpito da quella bellezza da fermare la sua nave per meglio contemplarla, a rischio di farsi massacrare dagli incrociatori inglesi. Ma a chi appartiene? Da alcuni si dice che sia la figlia di un colono, da altri di un lord, da altri ancora che sia niente meno che parente del governatore di Labuan. Strana creatura, mormorò Sandokan, comprimendosi con le mani la fronte. È così? Chiese Yanez. Il pirata non rispose. Si era bruscamente alzato in preda ad una viva emozione e si era portato dinanzi all'armonium, facendo scorrere le dita sui tasti. Yanez si limitò a sorridere e, staccando un chiodo dove una vecchia mandola, si mise a pizzicarne le corde, dicendo: «Sta bene, facciamo un po' di musica». Aveva però appena cominciato a suonare una arietta portoghese allorquando vide Sandokan avvicinarsi bruscamente al tavolo, puntandovi sopra le mani con tale violenza da farlo piegare. Non era più lo stesso uomo di prima, la sua fronte era burrascosamente aggrottata, i suoi occhi mandavano cupi lampi, le sue labbra ritirate si mostravano i denti convulsivamente stretti, le sue membra fremevano. In quel momento egli era il formidabile capo dei feroci pirati di Monpracem. Era l'uomo che da 10 anni insanguinava le coste della Malesia. L'uomo che per ogni dove aveva dato terribili battaglie. L'uomo la cui straordinaria audacia e l'indomito coraggio gli avevano valso il nomignolo di Tigre della Malesia. Yanez, esclamò egli con un tono di voce che più nulla aveva d'umano, che cosa fanno gli inglesi a Labuan? Si fortificano, rispose tranquillamente l'europeo. Forse che tramino qualche cosa contro di me? Lo credo. Ah, tu lo credi? Che osino alzare un dito contro la mia Monpracem. La tigre li distruggerà fino all'ultimo e berrà tutto il loro sangue. Dimmi che cosa dicono di me? Che è ora di finirla con un pirata così audace. E mi odiano molto. Tanto che s'accontenterebbero di perdere tutte le loro navi pur di appiccarti. Ah. Dubiti forse? Fratellino mio, sono molti anni che tu ne commetti una peggiore dell'altra. Tutte le coste portano le tracce delle tue scorrerie. Tutti i villaggi e tutte le città sono state da te assalite e saccheggiate. Tutti i forti olandesi, spagnuoli e inglesi hanno ricevuto le tue palle e il fondo del mare è irto di navi da te mandate a picco. È vero. Ma di chi la colpa? Forse che gli uomini di razza bianca non sono stati inesorabili con me? Forse che non mi hanno detronizzato col pretesto che io diventavo troppo potente? Forse che non hanno assassinato mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle per distruggere la mia discendenza? Quale male avevo io fatto a costoro? La razza bianca non aveva mai avuto da dolersi di me, eppure mi vuole schiacciare. Ora io li odio, siano spagnoli o olandesi o inglesi o portoghesi tuoi compatrioti, io li esecro e mi vendicherò terribilmente di loro, l'ho giurato sui cadaveri della mia famiglia e manterrò il giuramento. Se sono però stato spietato coi miei nemici, qualche voce spero si alzerà per dire che talvolta sono stato generoso. Non una, bensì 100, 1000 voci possono ben dire che tu sei stato coi deboli perfin troppo generoso, disse Yanez. Possono dirlo tutte quelle donne cadute in tuo potere che tu hai condotte a rischio di farti colare a picco dagli incrociatori nei porti degli uomini bianchi. Possono dirlo le deboli tribù che tu hai difeso contro le razzie dei prepotenti, i poveri marinai privati dei loro legni dalle tempeste che tu hai salvati dalle onde e coperti di regali. E 100 e 1000 altri si ricorderanno sempre dei tuoi benefici, oh Sandokan. Ma dimmi ora, fratellino mio, che cosa vuoi concludere? La tigre della Malesia non rispose. Si era messo a passeggiare per la stanza con le braccia incrociate e la testa china sul petto. A che pensava quel formidabile uomo? Il portoghese Yanez, quantunque lo conoscesse da lungo tempo, non sapeva indovinarlo. Sandokan, disse dopo qualche minuto, a che cosa pensi? La tigre si fermò guardandolo fisso fisso, ma ancora non rispose. «Hai qualche pensiero che ti tormenta?» riprese Yanez. «Toh, si direbbe che ti cruci perché gli inglesi ti hanno morto». Anche questa volta il pirata stette zitto. Il portoghese si alzò, accese una sigaretta e si diresse verso una porta nascosta nella tappezzeria dicendo «Buonanotte, fratellino mio». Sandokan a quelle parole si scosse e, fermando con un gesto il portoghese, disse «Una parola, Yanez. Parla dunque. Sai che voglio andare a Labuan? Tu, a Labuan? Perché tanta sorpresa? Perché tu sei audace e commetteresti qualche pazzia nel covo dei tuoi più accaniti nemici?» Sandokan lo guardò con due occhi che mandavano fiamme ed emise una specie di sordo grugnito. «Fratello mio», riprese il portoghese, «non tentare troppo la fortuna, sta in guardia. L'affamata Inghilterra ha messo gli occhi sulla nostra Monpracem e forse non aspetta che la tua morte per gettarsi sui tuoi tigrotti e distruggerli. Sta in guardia perché ho veduto un incrociatore irto di cannoni e zeppo d'armati ronzare nelle nostre acque e quello là è un leone che altro non attende che una preda». «Ma incontrerà la tigre», esclamò Sandokan, stringendo i pugni e fremendo dai piedi al capo. «Sì, la incontrerà e forse nella pugna soccomberà, ma il suo grido di morte giungerà fino sulle coste di Labuan, e altri morranno contro me. Morranno molti leoni, poiché tu sei forte e tremendo, ma morrà anche la tigre. Io...» Sandokan aveva fatto un salto innanzi, con le braccia contratte per il furore, gli occhi fiammeggianti, le mani raggrinzate come se stringessero delle armi. Fu però un lampo. Si sedette dinanzi al tavolo, tracannò d'un sol fiato una tazza rimasta piena e disse con voce perfettamente calma: «Hai ragione, Yanez. Tuttavia, io andrò domani a Labuan. Una forza irresistibile mi spinge verso quelle spiagge e una voce mi sussurra che io devo vedere la fanciulla dai capelli d'oro, che io devo... Sandokan! Silenzio, fratellino mio. Andiamo a dormire». Capitolo secondo. Ferocia e generosità. All'indomani, qualche ora dopo che il sole era sorto, Sandokan usciva dalla capanna pronto a compiere l'ardita impresa. Era abbigliato da guerra. Aveva calzato lunghi stivali di pelle rossa, il suo colore favorito, aveva indossata una splendida casacca di velluto pure rosso, adorna di ricami e di frange e larghi calzoni di seta azzurra. Ad armacollo portava una ricca carabina indiana arabescata e da lungo tiro, alla cintura una pesante scimitarra dalla impugnatura di oro massiccio e di dietro un kris. Quel pugnale dalla lama serpeggiante e avvelenata, tanto caro alle popolazioni della Malesia. Si arrestò un momento sull'orlo della Gran Rupe, scorrendo col suo sguardo d'aquila la superficie del mare, diventata liscia e tersa come uno specchio, e lo fermò verso l'oriente. «È là», mormorò egli, dopo alcuni istanti di contemplazione, «strano destino che mi spinge laggiù, dimmi se mi sarai fatale. Dimmi se quella donna dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro che ogni notte conturba i miei sogni sarà la mia perdita». Sfossò il capo se volesse essere un cattivo pensiero, poi a lenti passi discese una stretta scaletta aperta nella roccia e che conduceva sulla spiaggia. Un uomo lo attendeva al basso. Era Yanez. «Tutto è pronto», disse questi. «Ho fatto preparare i due migliori legni della nostra flotta, rinforzandoli con due grosse spingarde. E gli uomini? Tutte le bande sono schierate sulla spiaggia coi loro capi. Non avrai che da scegliere le migliori». «Grazie, Yanez. Non ringraziarmi, Sandokan. Forse ho preparato la tua rovina. Non temere, fratello mio. Le palle hanno paura di me. Sii prudente, molto prudente. Lo sarò, e ti prometto che appena avrò veduta quella fanciulla ritornerò qui. Dannata femmina, strangolerei quel pirata che pel primo la vide e ne parlò a te. Vieni, Yanez. Attraversarono una spianata difesa da grandi bastioni e armata di grossi pezzi d'artiglieria, di terrapieni e di profondi fossati, e giunsero sulle rive della baia, in mezzo alla quale galleggiavano 12 o 15 velieri che si chiamavano praos. Ad una lunga fila di capanne e di solidi fabbricati che parevano magazzini, 300 uomini stavano schierati in bell'ordine in attesa d'un comando qualunque per slanciarsi come una legione di demoni sulle navi e spargere il terrore su tutti i mari della Malesia. Che uomini e che tipi! Vi erano dei malesi di statura piuttosto bassa, vigorosi e agili come le scimmie, dalla faccia quadra e ossuta, dalla tinta fosca, uomini famosi per la loro audacia e ferocia, dei battias, dalla tinta ancora più fosca, noti per la loro passione per la carne umana, quantunque dotati di una civiltà relativamente assai avanzata, dei daiachi, dalla vicina isola di Borneo, di alta statura, ai lineamenti belli, celebri per le loro stragi, che valsero loro il titolo di tagliatori di teste, dei siamesi, dal viso romboidale e gli occhi dai riflessi giallastri, dei cocincinesi, dalla tinta gialla e il capo adorno di una coda smisurata, e poi degli indiani, dei bughisi, dei giavanesi, dei tagali delle Filippine e infine dei negritos, con delle teste enormi e i lineamenti ributtanti. All'apparire della tigre della Malesia un fremito percorse la lunga fila dei pirati. Tutti gli occhi parvero incendiarsi e tutte le mani si raggrinzarono attorno alle armi. Sandokan gettò uno sguardo di compiacenza sui suoi tigrotti, come amava chiamarli, e disse: «Patan, fatti innanzi!» Un malese di statura piuttosto alta, dalle membra poderose, la tinta olivastra e vestito d'un semplice sottanino rosso adorno di alcune piume, si avanzò con quel dondolamento che è particolare degli uomini di mare. «Quanti uomini conta la tua banda?» chiese. 50, tigre della Malesia. Tutti buoni? Tutti assetati di sangue. Imbarcati su quei due prahos e cedi nella metà al giavanese Girobatol. E si va?» Sandokan gli lanciò uno sguardo che fece fremere l'imprudente, quantunque fosse uno di quegli uomini che si rideva della mitraglia. «Ubbidisci, e non una parola se vuoi vivere», gli disse Sandokan. Il malese s'allontanò rapidamente, traendosi dietro la sua banda composta di uomini coraggiosi fino alla pazzia e che, ad un cenno di Sandokan, non avrebbero esitato a saccheggiare il sepolcro di Maometto, quantunque tutti maomettani. «Vieni, Yanez», disse Sandokan quando li vide imbarcati. Stavano per scendere verso la spiaggia quando furono raggiunti da un brutto negro, dalla testa enorme, dalle mani e di piedi di grandezza sproporzionata, un vero campione di quegli orribili negritos che si incontrano nell'interno di quasi tutte le isole della Malesia. «Che cosa vuoi e da dove vieni, Kilidalu?» gli chiese Yanez. «Vengo dalla costa meridionale», rispose il negrito, respirando affannosamente. «E che rechi?» «Una buona nuova, capo bianco. Ho veduto una grossa giunca bordeggiare verso le isole Romades.» «Era carica?» chiese Sandokan. «Sì, tigre.» «Sta bene. Fra 3 ore cadrai in mio potere.» «E poi andrai a Labuan?» «Direttamente, Yanez.» Si erano fermati dinanzi ad una ricca baleniera montata da 4 malesi. «Addio, fratello», disse Sandokan, abbracciando Yanez. «Addio, Sandokan. Bada di non commettere delle pazzie.» «Non temere, sarò prudente. Addio. E che la tua buona stella ti protegga.» Sandokan balzò nella baleniera e con pochi colpi di remo raggiunse i prahos. Gli stavano spiegando le loro immense vele. Dalla spiaggia si alzò un immenso grido. «Evviva la tigre della Malesia!»